Convocati di Carlo Genta. Volete che parliamo italiano? Siete i migliori del mondo, veramente incredibile, grazie mille, troppo bello, proviamolo. Nico Rosberg è campione del mondo per la prima volta in carriera, riesce dove è riuscito suo padre nell'82 a conquistare il titolo, 20 anni dopo, il secondo pilota che riesce a fare quello che ha fatto il padre 20 anni fa, Damon Hill. Questa volta è Nico Rosberg che se l'è sudato, Hamilton ci ha provato, Nico Rosberg l'ha conquistato. Thank you guys, thank you very much. We'll never forget this moment, this team, this job, so thank you really, all of you guys, all of you guys. È pazzesco, non ci credo che veramente ci sono riuscito sulla stagione la più lunga e con lui secondo me come compagno, perché quello lì veramente va fortissimo e sempre e lotta e prova tutto e vincere contro lui è ancora più la soddisfazione è ancora più grossa. Veramente ho spinto, ho messo tutto quello che ho quest'anno, tutto, cioè sacrifici ovunque, ho provato tutto, mi sono impegnato, ho spinto, veramente pensato cosa posso migliorare, spinto e quello è il risultato adesso. Beh, in queste parole c'era già un preannuncio di ciò che sarebbe successo. Il Natale è ormai passato, ma noi useremo questo e i prossimi giorni per raccontarvi storie di protagonisti dello sport, a partire appunto dalla Formula 1. Beh, Nico Rosberg è protagonista non solo perché ha vinto il mondiale, dicendo ho dato tutto, più di così non potevo fare, ma anche perché 5 giorni dopo queste parole pronunciate ad Abu Dhabi annunciava il suo ritiro dalle corse. Hi everybody, a big day for me today. I'm getting my World Championship Winners Trophy here in Vienna, but also another thing is happening, and that is that yeah, it's been an amazing year for me and you know, since 25 years since I started racing, my goal and my dream was very, very clear. It was to win the World Championship. And I've achieved that now with your help, so thank you so much for your part of it, you know, your part in it, because you kept me motivated, kept me pushing. But this year, you know, it's been extremely tough as well. I really gave it everything I had. I didn't leave a stone unturned, and I'm not willing to do that again for next year. So I've decided to call it a day, stop racing here, just following my heart. You know, you just live once, so my heart is telling me to do this. And it just feels completely right. And so again, yeah, thank you very much. And I hope you'll have fun memories of the last 3 years of all the exciting moments that we shared. And yeah, see you somewhere very, very soon. Bye bye. Magari potrà fare il cantante come abbiamo sentito intonare una famosa canzone che ci sta molto nel cuore, perché per noi significa anche il mondiale del 2006 vinto proprio in Germania. Beh, tante reazioni a questo addio, a cominciare da quella di uno, un vecchietto, che invece ha tutt'altre idee, Valentino Rossi. È stato uno shock un po', no? Io non me lo aspettavo. E delle volte sento Rosberg, no? Gli faccio complimenti quando vince, e però è difficile secondo me commentare o dire qualche cosa, nel senso che queste sono scelte talmente personali che comunque ha fatto bene, cioè se si sentiva di fare così, se si sente a posto avendo vinto il campionato e vuole stare con la sua famiglia, ha una moglie, una bambina bellissima, ha fatto bene. D'accordissimo con Valentino Rossi, Nico Rosberg idolo di questa stagione. E non poteva mancare Leo Turrini, che io so che sotto l'albero di Natale ha trovato una Ferrari nuova fiammante. Sì, un modellino, forse l'unica Ferrari vincente. Maestro Cetta, battutaccia. Mi fa piacere che lei anche nel periodo delle festività natalizie contribuisce a far il PIL. Turrini, io a te non posso rinunciare. È doveroso segnalare l'attenzione degli ascoltatori di Radio 24. Dopodiché devo parlare dell'addio post vittoria di Rosberg. Allora, eccomi qua. Allora, parliamo. Allora, già ti dico, ti anticipi i temi, perché i quattro personaggi in cerca d'autore in questo caso sono, o che hanno già un autore, in questo caso saranno Nico Rosberg, saranno Verstappen, che è la nuova grande stella, ve li dico in ordine sparso, saranno Vettel, che invece ha deluso moltissimo, e sarà Lewis Hamilton, il grande sconfitto. E adesso parlami dell'addio di Nico Rosberg e dimmi che in questo periodo passato tra il mondiale e l'annuncio dell'addio hai deciso anche tu che è un idolo assoluto. Guarda, io sono rimasto un po' sorpreso perché avevo deciso di smettere io, appunto, no? E invece Rosberg mi ha rubato l'idea. Vabbè, sì, se smetti tu, smetto anch'io, lo giuro. Sono d'accordo con la tua osservazione. Io penso che Nico abbia fatto qualche cosa di straordinario prima in pista, perché vincere un duello così estenuante contro un campione fortissimo della PAS, Lewis Hamilton, insomma, non è cosa tanto semplice, non è roba di tutti i giorni. E poi mi è piaciuto tanto anche il modo in cui ha scelto di staccare la spina. Le motivazioni che ha portato sono state toccanti, perché quando ha pronunciato quella frase, ho fatto sentire prima in inglese, e da quando ero bambino avevo questa ossessione di diventare campione del mondo in Formula 1 come mio padre. Sì, quante volte su Sky anche con te abbiamo visto le immagini di Keke Rosberg che gli versava la benzina nel go-kart e gli teneva i tempi. Cioè, praticamente lui ha confessato di essere stato prosciugato da questo desiderio, e quando ci è arrivato lì ha raccontato che non dormiva più di notte, che nell'ultimo periodo del campionato, se non avesse avuto accanto la moglie, probabilmente non ce l'avrebbe fatta proprio a gestire, diciamo, il carico nervoso, no, della situazione. Io l'ho trovato molto umano, molto bello, però a questo punto, come dicevano i latini, perché lei, caro Genta, io riesco a gestire il carico nervoso solo perché tu mi sei vicino, sappilo. Io vorrei fare un caveat, come dicevano i latini. Un caveat, cioè parole di grandissimo apprezzamento per Nico, come quelle che io e te insieme abbiamo appena pronunciato, a patto che fra due anni non ci ripensi. No, su questo sono tutti d'accordo. Se fra due anni viene fuori a dirci, col suo bel faccino che sembra Leonardo DiCaprio, sono trafitto dalla nostalgia per le corse, sono sedotto dal brivido 300 all'ora e quindi rientro a competere, come hanno fatto peraltro in tanti, nell'automobilismo come in altre discipline, allora, se dovesse accadere questo, saremmo costretti a rileggere questa rinuncia, sì, perché a quel punto vorrebbe dire che lui invece è scappato con la palla, come quando uno giocava a pallone, no? E andava in vantaggio 1-0 da bambino e poi diceva partita finita perché il pallone è mio, lo porto via. Vorrebbe dire che è scappato perché non voleva dare la rivincita in pista a Hamilton. Comunque, stiamo al presente, ripeto, è stata una lezione di signorilità, di classe, e ribadisco, una vittoria, quella nel mondiale, meritata, perché Rosberg comunque è stato più continuo del nero. Ha iniziato la stagione con un piglio del quale io non lo credevo capace, perché veniva da due campionati persi e lui si è presentato boom boom boom boom boom con quattro vittorie consecutive, ha avuto anche i suoi momenti difficili, li ha saputi governare, alla fine sotto forma di sventure di Lewis il destino lo ha anche un po' aiutato, penso quel motore Mercedes che si è schiantato in Malesia sulla macchina di Hamilton. Però niente da dire, cioè quando uno ce la fa, ripeto, contro un avversario così, allora non voglio essere confuso, fate le debite proporzioni, Rosberg è molto più forte di Barrichello dei tempi. Vabbè, ma è un po' come poi se Pedicinello, a me carissimo, sì. Rubigno, Pedicinello, dopo aver perso due mondiali di fila contro Schumacher, il terzo l'avesse vinto lui, cioè cosa sì. avremmo detto? No, io dico, ma poi condividiamo il pensiero con altri ospiti di questa puntata, il più scarso campione del mondo di Formula 1 è stato l'altro figlio d'arte, Damon Hill. Non so se sei d'accordo, ma lo scopriamo dopo il traffico, stai lì. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, secondo me Jacques Villeneuve era un buon pilota, Damon Hill era un broccaccione che ha vinto per caso un mondiale, Nico Rosberg è un eccellente pilota, era un eccellente pilota di Formula 1. Guarda, io non sarei così severo su Damon Hill, che chiamavo il comandante Zero, perché aveva questa strana caratteristica che allora il numero uno spettava il campione del mondo in carica. Nel 93 Mansell non c'era perché la Williams aveva sostituito con Prost, allora diedero a Hill lo 0 e a Prost il 2. E la stessa cosa accade nel 94, che Prost era ritirato da campione e venne Senna e Williams, il numero 0 e il povero Ayrton numero 2. Io non penso che Damon fosse così scarso come lo fai tu, perché insomma non ha sfigurato negli anni in cui è stato compagno di squadra di Prost, per fare un esempio, e poi comunque io sono convinto di quello che sto per dire: vincere un mondiale di Formula 1 non è mai una cosa semplice, nemmeno quando hai la macchina migliore. Sto estremizzando, però dei tre che tu hai evocato, certamente Nico per quello che ha fatto vedere in carriera e poi negli anni in Mercedes è il migliore, insomma questo è uno. Senti, che è stato il Mercedes dal 2010 in poi, attenzione, ha avuto due compagni di squadra, Schumi, che sì, era il Schumi 2.0 invecchiato e tutto, però insomma, a proposito di ritorni che sarebbe meglio non vedere. Senti Leo, ti chiedo una cosa, ti ricordi qual è stata la più grande gara che hai visto di Jarno Trulli? Del grande Jarnone? Ma guarda, io vado a memoria, perché molti direbbero quando vinse a Monte Carlo nel 2004, io ero là, mi sono commosso e poi ho brindato con un vino di Trulli, perché Trulli è un produttore di vini eccellenti. Ma invece io vorrei citare una gara che Trulli non finì, guidava una Prost, la macchina che si chiamava come il quattro volte campione del mondo, secondo me eravamo in Austria, lui fu anche a lungo in testa, credo fosse il 97, e poi si dovette fermare per un guasto o qualcosa del genere. Ma sto staccheggiando la mia memoria. Allora lo chiediamo a lui. Grazie Carlo. Ciao a tutti. Ciao Jarno. Hai sentito Turrini? Bene. Ti ricordi bene, Leo? Era quella la gara? In Austria? Sì, era una delle gare belle che ho fatto, e che tra l'altro quella lì in particolare non ho terminato, perché dal primo al 37esimo giro ho dominato la gara, poi è andato tutto in fumo con il motore. Però Turrini si ricorda questo, e io, scusami Jarno, ma di Turrini mi fido come della Bibbia. E ascolta, stiamo parlando del ritiro di Nico Rosberg e siamo tutti d'accordo, tutti, io e Leo, nel dire che è stato un idolo, nel farlo in questo momento. Le ragioni sono chiare, perché d'altra parte Leo mi ricordava una frase bellissima di Rosberg. Leo, quando, a proposito del sorpasso di Verstappen, è stato un momento terribile. Sì, guarda, io lì, col senno di poi, quando lui ha annunciato che dava l'addio, ma ripensandoci ho compreso perché mi aveva colpito così tanto, perché lui nei festeggiamenti di Abu Dhabi aveva descritto un sorpasso difficile, eccetera, la manovra su Verstappen durante quel Gran Premio, come un momento orribile. Ora lì mi sono detto, se uno che di mestiere fa il pilota, e il sorpasso è certamente la cosa più eccitante che ci sia, poi Jarno ce lo potrà confermare, sente, avverte una fitta di angoscia proprio mentre fa un sorpasso, ecco lì forse avremmo dovuto capire che lui era arrivato al punto di rottura, che non se la sentiva più. Sei d'accordo, Jarno? Guarda, sono d'accordo, è sempre difficile poi giudicare gli altri, soprattutto in queste decisioni bisogna anche rispettarle molto, perché assolutamente. Non tutti capiscono da fuori la pressione, tutto l'entusiasmo che ci mettiamo, e poi alla fine la verità è quello che ci spinge la grande passione, almeno per quanto mi riguarda, la grande passione nei confronti delle gare, dell'automobilismo, della sfida a correre in Formula 1. È certo che poi arriva un momento in cui ti comincia a porre anche delle domande, e probabilmente a Nico è arrivato anche questo momento. È arrivato forse il momento migliore, perché era all'apice, quindi nessuno di noi poteva magari aspettarselo. Però ricordatevi una cosa: io Nico l'ho sempre percepito come un ragazzo estremamente intelligente, una persona che sapeva e conosceva benissimo i suoi limiti. Di Hamilton, posso dire una cosa: che Rosberg sicuramente ha meno talento di Hamilton, ma lo ha battuto solo ed esclusivamente con la forza di volontà, con il lavoro, mettendo giù la testa e la serietà. E quando è riuscito, ha detto: secondo me ci riesco la seconda volta. Sono arrivato qui, Quindi lascio il segno. Eh sì, anche secondo noi è così. D'altra parte, Leo, io volevo anche introdurre il discorso sul moro inglese, perché un'altra stagione così secondo me non la corre più. Ha cominciato con Lindsay Vonn, come tu mi hai evocato, poi è passato attraverso Rihanna, eccetera eccetera, insomma ha attraversato una stagione di scazzo. Io penso che Hamilton abbia commesso un gravissimo errore di presunzione. Cioè, dopo aver vinto il secondo mondiale contro Rosberg, entrambi in possesso di una Mercedes dominante, lui si è convinto che la partita in famiglia fosse chiusa. Cioè, aveva la consapevolezza sbagliata che ormai la barrichellizzazione di Rosberg fosse definitiva. Sì. Perché l'Hamilton che si presenta al via del 2016 e ripetutamente caccia dalla finestra delle pole position sbagliando le partenze, l'Hamilton che ti dà l'impressione, ma proprio come atteggiamento ma anche nelle parole, di non prendere sul serio la concorrenza del suo compagno di scuderia. Io ricordo delle sue frasi quando Rosberg vinceva a fine 2015 a titolo già assegnato le ultime tre gare, e poi anche le prime del 2016 Hamilton continuava a ripetere: sì, ma va bene, ma comunque io sono più forte, no, non c'ho nessun tipo di ansia. Ecco, lui secondo la mia considerazione ha veramente peccato di eccesso di autostima. Guarda, ti farò un paragone che può essere una lezione per Hamilton, e forse Jarno se lo ricorderà. Nel 2003 la Ferrari vinse il mondiale, il titolo numero 6 di Schumacher, sì, all'ultima gara a Suzuka, ma nella seconda parte del campionato, più di una volta, compresa la gara stessa di Suzuka, Barrichello era andato più forte di Michael. Nel 2004, pronti via, la Ferrari aveva un missile, vinsero 15 Gran Premi su 17, le prime 5 gare dell'anno, senza ordine di scuderia, 5 volte pole position Schumacher, 5 vittorie consecutive di Michael, mondiale finito. Ecco, Hamilton avrebbe dovuto studiarsi quel precedente lì e capire che persino uno come Michael si era messo lì con la testa per fugare il sospetto che un compagno di squadra potesse diventare troppo veloce rispetto a lui. Mai sottovalutare l'orgoglio del campione, dicono gli americani. Sì. Io dico che Rosberg stesso, Jarno, si è reso conto che un'altra stagione così sarebbe stata irripetibile. Si è reso conto che probabilmente le avrebbe prese da Lewis Hamilton lungo tutta la stagione. E quindi è stato, come dici tu, un ragazzo estremamente intelligente anche a scegliere il momento. Ora la scelta del momento è molto obiettiva, è difficile entrare in quelle situazioni, poi noi stiamo facendo le nostre valutazioni, però alla fine non sappiamo cosa ha spinto Rosberg. Una cosa è certa: Nico ha avuto di fronte questo avversario lungo tutta la sua carriera, sì, e lungo tutta la sua carriera le ha sempre prese. Ora, è riuscito finalmente a darle, ma soprattutto è riuscito a vincere un mondiale, perché che se ne dica che si dica che avrebbe meritato più Hamilton o no, la verità è che lo ha vinto Rosberg e quindi lo ha meritato Rosberg, anche per quello che ha saputo fare e come l'ha saputo gestire. Poi se noi andiamo a analizzare il campionato, sappiamo benissimo che Hamilton ha sbagliato di più, è stato anche sfortunato, ha avuto diverse peripezie a livello tecnico, cosa che non ha avuto Rosberg. Rosberg è stato molto più concreto, sia lui sia la sua macchina e il suo team. In generale hanno funzionato molto, ma molto meglio. Però è certo che una seconda chance così difficilmente torna. Ora, che sia questo il motivo o meno che lo abbiano portato a valutare di ritirarsi o meno, questo noi non lo possiamo sapere. Una cosa è certa, che dalle sue parole si capisce benissimo che c'era una forte pressione, e un secondo anno dopo 30 anni di gare così probabilmente non sarebbe riuscito ad affrontarlo. Certo che è così. Dove lo metti Hamilton nella scala dei piloti, non ti dico nella storia, ma in questo momento è il più forte di tutti? Ma sai, è molto difficile dire e che fosse tutti, perché dipende sempre dalla macchina che guidi. Guardate campioni come Alonso, guardate cosa è successo a Schumacher, a Senna, insomma dipende sempre da ciò che, dove sei, da cosa guidi, perché alla fine lo stesso Rosberg che è stato campione del mondo, ma non si sarebbe riuscito con un'altra macchina. Hamilton è riuscito con la McLaren, poi ha tentennato, è dovuto portare la Mercedes e poi è tornato a vincere. Ma un Hamilton di oggi, se lo mettete su una McLaren, farebbe quello che farebbe Alonso oggi. Quindi è difficile giudicare i piloti. Certo che quando diventi campione del mondo più una volta, di certo hai numeri. Poi star lì a dire chi è il meglio, chi è il peggio, è sempre lì. Rimane comunque una certezza, a mio avviso, che Senna comunque rimane il numero uno per quello che ha fatto vedere. Pur non avendo vinto solo tre mondiali, però quello che faceva vedere Senna lo facevano vedere sicuro, pochi. Sicuro. Jarno, prepara una bottiglia che arriviamo io e Turrini, Guardate. Arriviamo io e tu, preparane un paio. Arriviamo a trovarti e Turrini. Abbiamo la stantina intera. Grazie, Jarno. Un abbraccio forte. Ciao. Ciao a tutti, buona serata. Leo, tu non scappare. Ciao. Tu non scappare, stai lì. Perché adesso parliamo di Verstappen, del nuovo fenomeno che avanza, del maleducato. Ne parliamo con uno che ha lanciato qualche pilota, due o tre, abbastanza importanti. A tra poco. Tutti convocati. Tutti convocati. Chicane sinistra, destra e signori, alzatevi in piedi ed applaudite il fenomeno. Max Verstappen, 18 anni, vince il suo primo Gran Premio nella sua giovane storia di Formula 1. Incredibile, impressionante. Signori, oggi stiamo assistendo alla storia di questo sport. Secondo Kimi Raikkonen, in terza posizione per Sebastian Vettel. You are a race winner, fantastic. What a great debut. What a debut, fantastic, great job. Thank you very much, Christian. Adesso piange e adesso ci tira fuori un lato umano che fino a questo momento non avevamo visto. Giovane, trendy, fortissimo, maleducato, X Generation, eccolo qui, Max Verstappen. Leo, ne parliamo con un signore che qualche pilota giovane l'ha lanciato, tipo Giancarlo Minardi. Andiamo sul sicuro qui, sicuro. Ciao Giancarlo. Ciao Leo. Ciao. Allora, 18 anni, sfrontato ai limiti della maleducazione, certamente personaggio. Verstappen quanto vale? So che è una domanda da un miliardo di dollari, però la chiedo a due grandi esperti come Giancarlo Minardi e Leo Turrini. Giancarlo, dimmi. Ma io penso che sia di dote naturale un campione. La natura l'ha dotato di una classe eccezionale. Adesso starà in lui poter dimostrare fin dove può arrivare. Sono quei fenomeni che nascono ogni tanto, e in questo periodo è nato Verstappen. Ecco. Questo periodo è nato Verstappen, Leo. Guarda, allora, io devo dire innanzitutto una cosa che ripeto spesso, sulla quale Giancarlo concorderà con me: ha preso tutto dalla mamma questo Max, perché io e lui abbiamo fatto in tempo a veder correre il padre, che sì, era un buon pilota, fu anche compagno di squadra di Schumi alla Benetton, ma certamente non ha mai mostrato, insomma, questi lampi, no, del figliolo. Non facciamo i buonisti, era un broccaccione. Ecco, sì, direi di sì, tutto sommato sì. Io quest'anno sono rimasto impressionato dal ragazzino, lo ammetto, perché quando la Red Bull prese la decisione dopo 4 Gran Premi di scaricare il russo Kvyat e promuovere subito Verstappen, ho detto: beh, adesso andiamo a vedere se tutto quello che si racconta su di lui, no, è fondato, perché andrà su una vettura più competitiva, e attenzione, con un compagno di squadra come Ricciardo, che nel 2014 aveva messo sotto un certo Vettel, e che a me piace, quindi, moltissimo, peraltro. Quindi voglio dire, non è che Verstappen è andato a confrontarsi con, diciamo, un broccaccione, come dici tu. Insomma, ha fatto vedere delle cose straordinarie. Poi è tutto un altro discorso quello che riguarda la sfrontatezza, anche la maleducazione. Io una volta ho detto che pare avere il cervello di una gallina, perché è uno che dice che Vettel è un idiota, che Villeneuve è un assassino, che sono tutti una manica di imbecilli, insomma, avendo vinto poi finora. Ma fosse stato un pilota di Minardi, cosa avrebbe fatto lui? Ecco, cosa avrebbe fatto Minardi? Sì. Facciamo che lo dire da lui. Allora, io ho avuto la possibilità di lavorare col padre, e per fortuna, almeno nella parte iniziale della sua carriera, sembrava che Max fosse molto diverso, anche se ogni tanto cade in quella, diciamo, ignoranza che il padre ha sempre dimostrato durante la sua carriera, anche difficile da gestire. Io credo che la colpa primaria l'abbia il team, nel senso che è il team che deve educare il proprio pilota, tra virgolette dipendente, a fare certe cose, non ad avallarle, come è successo quest'anno in alcune occasioni, sia per problematiche di pista, sia per dichiarazioni, come Leo stava sottolineando. Il primo che deve intervenire, a mio parere, è appunto il team principal, perché a tutti gli effetti comunque il pilota è un tuo dipendente. Poi anche la federazione, perché la federazione è stata molto permissiva nei suoi confronti in certe occasioni, e quindi la federazione, in seconda battuta, dovrebbe essere anche lei un'educatrice nei confronti dei propri... Sì, forse, più, forse addirittura più del team, Leo, perché... il team è primario, attenzione. E lo so, però ti trovi per le mani, ti trovi per le mani uno così, non lo so, in qualche modo gli concedi qualcosa di più, sì, forse. Però secondo me Giancarlo ha ragione, nel senso che, fermo restando che, ripeto, la stampa ci ha mostrato cose fenomenali, che ne vorrebbero di più di piloti come lui in pista, con questo senso dell'audace, eccetera. Poi un giovanissimo, quindi questo aiuta anche per quanto riguarda, diciamo così, la popolarità della Formula 1 nella fascia di pubblico più giovane, i teenager e così via. Quindi, per l'amor di Dio, però Giancarlo ha ragione, la Red Bull avrebbe dovuto, proprio perché sta investendo tanto sulla figura di questo giovanotto, fargli capire che certi atteggiamenti comunque non vanno bene. Non è che siccome sei forte ti allora è permesso tutto, ti si deve far passare tutto. E aggiungo anche su questo, sono d'accordo con il mio maestro Minardi, la stessa federazione internazionale, che per 1, 2, 3, 4, 5 Gran Premi non è mai intervenuta di fronte a manovre al limite di Max, ha sbagliato, perché è stato dato un messaggio, tra l'altro ha irritato moltissimo i colleghi di Verstappen, che hanno detto pubblicamente, certo, l'ha, certo, detto Rosberg, certo, l'ha detto Raikkonen, l'ha detto Vettel, beh, insomma, l'ha detto anche Alonso una volta, beh, sembra quasi che ci sia una regola diversa per il bambino d'oro, hai capito? Ecco, questo è sbagliato. Fatta la tara tutto questo, Beh, insomma, questo solo se pensiamo alla gara di Interlagos è stato sensazionale. Ma io vorrei fare una domanda al mio nome tutelare Minardi, visto che lui lanciò Alonso giovanissimo, chiedergli se Verstappen gli ricorda Fernando a 20 anni o se è un paragone ancora prematuro. Ma guarda, io non mi piace fare paragoni con piloti o persone con le quali non ho lavorato, e quindi Verstappen, ho conosciuto il padre col nome Verstappen, non il figlio. Ho lavorato con Fernando e per me è stato subito un fenomeno. Probabilmente in quel momento lì, con un carattere molto diverso da quello che ha poi assimilato dopo, e credo che ancora oggi sia un fenomeno da battere qualora avesse una macchina competitiva. Caratterialmente e come educazione certamente diverso per quello che vedo esternamente, però ripeto, fare dei paragoni, anche perché ahimè per Alonso è un'altra generazione che sta correndo contro di lui. Verstappen è di un'altra generazione. Sì, Verstappen è di un'altra generazione, e si sente, come dicevamo prima, anche dal tenore delle dichiarazioni. È sempre difficilissimo fare paragoni epocali, ed è anche sbagliato, è un giochino da bar, ed è una domanda che detesto fare. Ma come caratteristiche, ragazzi, lo chiedo a Leo Turrini e a Giancarlo Minardi, nell'ordine, che pilota vi ricorda, chi vi ricorda del passato? Ma io, guarda, adesso ribadisco che bisogna attendere controprove. In fin dei conti questa è stata la prima vera stagione nemmeno intera di Verstappen su un monoposto competitiva. Bisogna vedere come regge la pressione dall'anno prossimo, quando, se le cose prendono la piega che tanti immaginano, la Red Bull sarà candidata al titolo, eccetera eccetera eccetera. Per certe esibizioni io torno su quella gara di Interlagos, e se vuoi anche per una certa sfrontatezza esasperata, a me ha ricordato il Senna più giovane. Bravo, Leo, anche a me. Quello che non era ancora arrivato in McLaren a giocare. Che ogni tanto faceva la cazzata più enorme. E poi era anche, insomma, dato che io ero amico suo, uno che andava anche, giocava anche sporco qualche volta. Giancarlo lo sa benissimo. Però mi arrendo al paragone che farà adesso il maestro Minardi. No, il maestro Minardi non fa nessun paragone, perché, come avete detto, innanzitutto parliamo sempre addirittura di 3 generazioni fa. Io voglio solo dire una cosa: il campione che ha delle doti naturali ha anche una sfrontatezza che altri non hanno, perché si sente sicuro delle proprie possibilità. Per esempio, fare dei paragoni con Senna, Prost, Mansell, Piquet, che facevano delle lotte al coltello che oggi sarebbero penalizzate, sì, io purtroppo. Io non condivido, è difficile, perché ripeto, come ha detto Leo, probabilmente quest'anno nel caso Verstappen gli è stato concesso qualcosa di più, che io, per l'amor di Dio, concederei forse permanentemente a tutti, così vediamo chi è un pilota di Formula 1, chi ha i cosiddetti per competere in questa lotta per il titolo. È chiaro che noi abbiamo visto ruotate tra Mansell e Senna, tra Prost e Senna, tra Senna e Piquet, che oggi sarebbero certamente redeguite e penalizzate, per cui è fatica capire l'influenza. Certo, bravo, chiaramente questo a 19 anni, un po' di incoscienza, finché non dà una botta di quelle che poi se lo ricorda, probabilmente fa delle cose che altri lavorano più sulla costanza, sul lungo... Che altri forse non hanno il coraggio di fare, Giancarlo. Grazie. Grazie. Prego, grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ti abbraccio. Ciao Giancarlo, ciao. Leo, tu so che sei... Sei collega di Davide Valsecchi, entrambi su Sky, tu commenti, lui a bordo pista ci racconta tutto. Lo saluto. Ciao Davide. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, come state? Io benissimo, Turrini credo anche, a sentirlo. Ma io quando sento Valsecchi sto meglio. Stai meglio? Perché quando lavoriamo insieme a Sky, devo dire che lui si trasforma praticamente, lui è il Max Verstappen dei commentatori TV, hai capito? Trova sempre una maniera di sorprenderti con una trovata nella nostra trasmissione Race Anatomy. Sì, se non ci fosse Valsecchi saremmo tutti più poveri, ecco. Senti, sono d'accordo, ma qual è stato, Davide, quali sono stati, sceglimi i tre momenti più emozionanti della stagione. Emozionanti, guarda, i più emozionanti di tutti sono stati gli ultimi giri di Abu Dhabi, perché Rosberg si è sfondato tutto l'anno per impegno, dedizione, voglia di arrivare, stava rischiando di buttare via tutto perché Hamilton lo rallentava, c'era la rimonta dietro di Verstappen e Vettel, perciò dico, il modo con cui ha sofferto ma poi vinto Rosberg sul finale è stata la parte più emozionante della stagione, secondo me, perché Rosberg se l'è meritato. Non basta nello sport essere il più bravo e il più talentuoso, ogni tanto vince chi non è strafavorito e forse chi per talento non lo merita, come Rosberg, ma ci ha messo voglia, dedizione, non ha mai sbagliato, anche un po' di fortuna, bravo, bravo lui, che poi ha cantato a tutti, se n'è andato, bravo. Però anche Interlagos, come ricordava Maestro Turrini, mica male. Interlagos, io è la guida dal vivo più bella che io abbia mai visto, perciò io dico che un pilota con me presente in circuito, o quando correvo o quando ne commentavo per il lavoro che facciamo, non ha mai corso così bene come Max Verstappen quel giorno lì. Grazie, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao Davide Valsecchi, andiamo al volo con il traffico e poi chiudiamo. Tutti convocati. Convocati. Ognuno deve porsi degli obiettivi, noi non dobbiamo porci l'obiettivo di essere secondi, ovviamente, dobbiamo porci l'obiettivo di stare davanti alla Mercedes. Siamo persone serie, siamo dei professionisti, quello che dobbiamo fare. Poi non è detto che ci riusciremo, però faremo di tutto per raggiungerlo. È iniziato da pochi giorni quello che per noi dovrebbe essere l'anno di ritorno in vetta. 2015 abbiamo fatto passi enormi, abbiamo dimostrato di essere competitivi e soprattutto siamo riusciti a ricreare un gruppo. La squadra oggi c'è, è una squadra forte e coesa, ci manca poco per arrivare dove vogliamo arrivare. Siamo consapevoli di avere avversari forti, ma non li temiamo, stiamo lavorando tanto e con la giusta cattiveria agonistica per presentarci in Australia come la squadra da battere. Non possiamo fare altrimenti se vogliamo rispettare la nostra storia di team più vincente della Formula 1. Toccato Sebastian Vettel, che riesce comunque a stare dentro, stare in pista, toccato ancora, si gira in testa con Sebastian Vettel, va a muro, partenza ottima di Kimi Raikkonen, partenza invece nel traffico per Sebastian Vettel. Insieme con pezzi di ala che se ne vanno sulla Ferrari, ma anche sulla Red Bull di Verstappen, e tocca molto, danneggiata la Ferrari. Ti posso dire che c'era tutta la scuderia che era pronta a vincere oggi. Poi le due Mercedes hanno avuto una gara quasi impeccabile, ad eccezione della partenza, dove in effetti le due Ferrari sono piazzate bene. Io ci speravo un po' quando ha visto Hamilton partire male. Sì, detto sì questo, poi bisogna finire la gara. E chiudiamo con il tafazzismo, Chiudiamo con il tafazzismo in rosso. Sì, cosa dobbiamo dire? Insomma, il 2016 della Ferrari è stato molto diverso da come se lo aspettava Marchionne, da come se lo aspettava Maurizio Arrivabene e da come speravano tutti i tifosi, quorum ego, io tra loro. Perché è vero, nel 2015 con tre vittorie e tanti podi aveva alimentato una fiducia, io non ho mai pensato che sarebbe stata un'impresa semplice, però ero convinto che la Ferrari se la sarebbe giocata. Poi magari alla fine ancora la Mercedes, io dicevo con Hamilton, l'avrebbe spuntata, ma eravamo pronti per un duello ravvicinato del primo tipo. La delusione è stata enorme, inutile girarci attorno, perché voglio dire, delusione anche per la prima guida, perché non ha fatto un buon mondiale. Allora, 21 gare, 0 vittorie, 0 pole position, due anni fa, 2014, si fece zero anche allora, e Marchionne disse: qui non è possibile andare avanti in questo modo, Montezemolo se ne deve andare, no? Praticamente come Zamparini, Marchionne esonerò Montezemolo per mancanza, esatto, di risultati, esatto. Due anni dopo i numeri sono identici. Fatta questa premessa, perché comunque la storia non va dimenticata, per venire a Seb, perché tu ti stai riferendo a Vettel, certo. Beh, io credo che quando si è reso conto, diciamo dalla quinta sesta gara, che non aveva una vettura in grado di lottare per la vittoria, credo che lui sia andato un po' in crisi da frustrazione. Sono d'accordo. Ha fatto più errori di quelli cui ci aveva abituato anche quando stava in Red Bull, e lui stesso, devo dirti con molta onestà, alla fine della stagione ha detto: beh, la macchina non era sufficientemente valida per pensare di vincere delle corse, ma sono deluso anche del mio rendimento. Cioè, è stato sincero, onesto, come dite voi, dalle due parti l'ha data su, ma l'ha data su molto presto, anche troppo presto. Beh, insomma, sai, la cosa che ha lasciato un po' perplessi, poi io sono un vetteliano, intendiamoci, perché non penso che si possano vincere quattro mondiali seppur con una macchina straordinaria qual era la Red Bull, se non hai talento. Però la cosa che stavo dicendo che ha lasciato un po' perplessi è che se tu prendi i dati della stagione, insomma, Vettel, che è sempre stato un grande sul giro secco, ha perso il duello con Raikkonen in qualifica 11-10. Sì, sì. Ora, sì, Raikkonen è il mio idolo, però francamente non ha mai avuto nella qualifica, no, il suo punto forte, nemmeno quando era giovanissimo. E anche in gara, vedere il rendimento gran premio per gran premio, sì, alla fine della classifica mondiale Vettel ha fatto qualche punto in più, ma è andato più forte Raikkonen, certo, se uno va a vedere. Basta leggere la classifica, quindi non è grosso obiettivo. C'è stato un problema che, e soprattutto, poi intendiamoci, a carico di quanti hanno sostenuto che Kimi è bollito, che il mio santo bevitore andava immediatamente parcheggiato a Villarzilla e lasciato lì, eccetera. Adesso che rispondano loro, voglio dire, certo. È andato come Vettel, se non più forte. È andato più forte di Vettel. Ecco, dopodiché speriamo che nel 2017 la musica sia diversa. Non possiamo far altro che sperare. Sì. Tanto al 2017 manca pochissimo. Ciao Leo, ti abbraccio, ti abbraccio forte. Ti abbraccio, che ne abbiamo tanto bisogno. Ah sì, forse per me lo tirerai su con le braccia, se non col crick. Grazie, ciao, ciao Leo. Ciao. Allora, io voglio chiudere questa puntata con la penna, anzi in questo caso la lingua di un grande maestro come Giorgio Terruzzi. Ciao Giorgio. Buongiorno. Eccoci. No, oggi abbiamo provato a tratteggiare, come faremo in questi giorni, oggi partendo dalla Formula 1, quattro personaggi in cerca di autore, o forse che l'autore l'hanno già trovato. I quattro personaggi della stagione sono stati Nico Rosberg, che è diventato uno dei miei idoli dopo quanto ha fatto, Max Verstappen, il babyface, il maleducato, il cafone, lo spocchioso, il fenomeno, Lewis Hamilton, lo sconfitto perché forse non aveva tanta voglia, e Vettel, che è stato strabattuto dal suo compagno di squadra, è stato strabattuto da questa stagione. Verstappen è stato il protagonista della stagione, ha salvato la vivacità del mondiale. Secondo me è un fuori classe, con dentro le arroganze e le scorrettezze di quelli lì, di quella risma lì. Per è uno cui, stronzo, insomma. Sì, è uno proprio senza, perché non fa prigionieri. Io però sono contrario ai paragoni, lo dico subito. No, ma io pure. Ecco, quindi è uno che secondo me segnerà il tempo da qui in avanti. Mi dispiace che non abbia, o forse non ancora, insomma, la maturità per tirare fuori un po' di anima. Cioè, lui viene da una storia personale, secondo me, al limite della drammaticità. Di questo non se ne parla, lui non proprio niente, risponde come un automa. Forse avremo tempo in futuro, spero, di capire di più, o che lui magari sveli di più i meccanismi più profondi, sì, e quindi diventi una vera storia sportiva, non soltanto un elenco di prestazioni comunque eclatanti per un verso o per l'altro. Il grande sconfitto Lewis Hamilton. Allora, sì, secondo me lui potrebbe riflettere, compreso considerando anche quest'ultimo capitolo. Cioè lui ha dato una risposta al ritiro di Rosberg completamente fuori fase, cioè ha detto ci ha messo 18 anni a vincere il mondiale, ma quello là non gli frega più niente di questa roba, non ha più senso. Cioè lui secondo me ha avuto un po' di presunzione, si è lasciato un po' andare secondo me, perché era convinto con buone motivazioni anche di potercela fare, tanto è vero che a momenti ce la faceva, però non è soltanto un problema di punti in classifica la vita e l'ammirazione e la relazione, quindi che sia il più bravo di tutti o forse uno dei più bravi di tutti siamo d'accordo, poi serve un po' d'altro, e a me di queste storie qui, di queste semifinzioni via web, i cani, le ragazze, Frizzi e Lazzi, sì va bene, dai, tirami fuori qualcosa d'altro, un po' più di varietà, no? Sì, con sì. Questo bravo, cioè, insomma tutte le cose che si dicono di Hamilton, no? Sì. E Nico Rosberg ritiro col casco d'oro in mano come già Jackie Stewart e Alain Prost, ma di qualche casco d'oro in più ce l'avevano. Ecco, secondo me la differenza la fa la centratura della persona, cioè qui abbiamo uno che, io l'altro giorno parlavo con Berger, che è uno che lo conosce bene, e diceva ma sai che alla fine della fiera non c'è niente di misterioso, è semplicemente un ragazzo in gamba che cambia la vita, ma insomma mica male, anche perché secondo me adesso soltanto capiamo quanta fatica deve aver fatto per arrivare qui, per dire smetto, perché probabilmente lui ha dovuto tirar fuori tutte le risorse, tutte le sue qualità, una concentrazione per battere Hamilton, per vincere il mondiale, con nel fondo dell'anima da qualche sì. parte l'idea di fare anche altro, sì. Quindi secondo me c'è dentro una è una bella storia, c'è, no? Dentro un'angoscia senza fine, sì, un'angoscia ma anche una soluzione, cioè io bisogna stare attenti qua, perché a molti, cioè non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di un iperprivilegiato, uno che può permettersi di fare queste cose con un futuro davanti, ma è chiaro. Però quel tema lì, cioè quante volte ci capitano nella vita a tutti noi, no? Di aver bisogno, e magari non lo facciamo, ce la contiamo su, di fare una riflessione su noi stessi rispetto agli amori, le famiglie, i lavori, no? E di prendere una decisione guardandoci dentro davvero. Ecco, questa cosa non è un problema di soldi, è un bellissimo straniamento, no? Lui ci ha un po' spiazzati, ci ha raccontato una storia a questo punto molto interessante, lui proprio che era un accusato di essere un po' banalotto, le foto, le sì, famiglie, sì, sì, però sì. Nella sua normalità c'è dentro un che di prezioso, quindi io lo salvo, altro che Rosberg. Lasciami solo una battuta su Vettel, che è stata invece la delusione più profonda di questa stagione, anche come pilota. Bisognerà capire fino a che punto c'ha le palle per fare il leader Vettel, perché qui non è, cioè qui il problema è questo, la Ferrari nel momento in cui deve vincere, cioè deve puntare su di lui. Sì, però se l'anno scorso ce l'aveva, non è che quest'anno gli sono cadute per terra. Però nel momento in cui uno perde un po' la Trebisonda così, quando tutto va un po' in vacca, dà un cattivissimo segno, no? Quindi la Ferrari, lui deve dare notizie eclatanti alla Ferrari, non spaventi, non preoccupazioni, questo è il suo compito. Come dice il mio amico Diego, no? C'è un periodo della vita in cui ti rompi le balle a fare tutto, poi c'è un periodo della vita in cui sei rotto le balle di fare tutto, ma in mezzo ti tocca. Questo qui ti tocca. Grazie Giorgio. Ciao. Buon lavoro. È sempre un piacere grandissimo parlare con Giorgio Terruzzi. Io ringrazio Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, e ci sentiamo domani alle 2, ragazzi.